Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Ha letto intanto il verbale della confessione di Occhi? No, io non ho letto. Se mi può dire qualcosa? Le prime parole di questo verbale glielo leggo testualmente. Prima di colpire mia moglie, ricordo che guardavo la mia bambina dormire nella stanza vicina con l'abat-jour accesa, come faceva sempre. Sono stato lì a guardarla per un po', poi sono entrato nella stanza da letto di Giada e l'ho vista. Non c'era molta luce e ricordo di aver visto solo la testa. Ricordo che l'ho colpita, non so bene dove, con un tubo d'acciaio. Non avevo intenzione di farle troppo male. Praticamente sono le stesse parole che aveva detto nella prima confessione. Io, a dire la verità, nella giustizia non è che ho mai creduto tanto, perché si vede di tutto e di più. Non urla, non si arrabbia, né gonfia la sua voce. Piuttosto, talvolta sembra che il dolore per la perdita di una figlia ammazzata e l'amarezza per un'indagine che non ha portato ad una condanna e ad una pena facciano ancora di più abbassare i toni a Maria Emanuela Natali, che non vuole adirarsi né lasciarsi troppo turbare dallo stato di impotente rassegnazione in cui è tornata dopo che all'inizio dell'anno ha saputo che Dennis Occhio, l'ex compagno di sua figlia, il padre della sua nipotina, è tornato in questura a Ferrara e ha fatto mettere a verbale di essere stato lui ad averla uccisa. Ma per quel delitto lui è stato già giudicato e assolto, ormai in via definitiva, dopo la condanna in primo grado e l'assoluzione in appello il 27 febbraio 2008. La procura non ha fatto ricorso in Cassazione e, come prevede la legge, Occhi, 33 anni, muratore di Migliaro nel Ferrarese, non può essere di nuovo processato per lo stesso fatto, nonostante una nuova confessione che va ad aggiungersi alle precedenti, rilasciate e poi ritrattate, fin da quel 25 novembre 2004, quando colpì la ex moglie Giada Anteghini, che morì dopo 14 mesi di coma. Maria Emanuela Natali fa di tutto per non lasciarsi andare e restare serena il più possibile, perché dalla mia serenità dipende quella della mia bambina, dice, ossia della nipotina, figlia di sua figlia Giada e di Occhi, appunto, che dal giorno del delitto vive con lei. E a lei, a questa bimba, la nonna che fa da mamma, cerca di non far vivere altri traumi più di quanti non le siano già toccati in sorte, comprese le minacce provenienti da suo padre. Male si può vivere, perché è chiaro che non riuscendo a trovarci una via di uscita non è una cosa piacevole. Io, a dire la verità, nella giustizia non è che ho mai creduto tanto, perché si vede di tutto e di più. Però un po' di speranza l'ho sempre avuta, ecco, perché insomma uno perlomeno si spera che qualcosa vada a buon fine, ma conoscendo il tipo, conoscendo le vicende anche passate, quando ancora mia figlia c'era, io non lo so per quale cavolo di motivo, ma lui se l'è sempre cavata. E quindi lei, quando ha letto di questa ulteriore confessione adesso, non l'ha sorpresa poi più di tanto? Per niente, anche perché io mi aspettavo un qualche cosa sotto le feste. Perché? Sempre conoscendo la persona, io so che lui sotto le feste è sempre fatto del gran disastro, cioè perlomeno quando c'era mia figlia. Dopo l'anno scorso era dentro per quel periodo lì e vabbè. Però sotto le feste lui o beveva o si faceva, non so che cosa succedeva, ma succedevano sempre delle grossissime litigate, non si passava mai delle feste tranquilli, sempre a correre avanti e indietro perché loro litigavano, perché lui spaccava mobili, spaccava tutto, minacciava, ne ha sempre fatte. Mia figlia ha sempre fatto denuncia, ma ne sarà andata a buon fine di quelle denunce a malapena un quarto. In che senso ne sarà andata a buon fine? Che non sono mai state fatte, cioè lei le ha presentate ma non sono mai state fatte. Non hanno mai fatto indagini su quello che sua figlia denunciava? Non sono mai partite le denunce, si sono fermate a chiacchierate e dicevano sempre ma è una litigata, cerchiamo di andare d'accordo, ma sì, io gli voglio fare da padre, gli insegno. Ma come si poteva insegnare a una persona che ha fatto uso della droga fin da ragazzino? Cioè cercavano in qualche modo, leggevano in quello che sua figlia denunciava una, diciamo, semplice lite all'interno di una coppia che potesse in qualche modo risanarsi, è questa? Esatto, sì, sì, sì. E anche dopo, dopo che lei si è separata, che se n'è andata con quell'altra persona, lui dopo un mese ha cominciato a minacciare, dopo un mese hanno cominciato ad arrivare messaggi di morte, e mia figlia denunciava e alcune, assieme appunto quel ragazzo con cui stava, alcune denunce sono partite, ma poche, e non hanno mai indagato più di tanto. Cioè sua figlia aveva anche già avuto delle minacce proprio? Certo, certo, ma sono depositati anche in tribunale questi messaggi, dove a quel ragazzo con cui le stava arrivava un messaggio del tipo: una sera di queste arrivi a casa e la trovi morta. Non è bastato, però non hanno fatto abbastanza. Ed erano messaggi per iscritto, vocali? Sì, per iscritto, sì. Io li ho letti. E sua figlia, immagino, fosse molto spaventata? Era spaventata inizialmente e ancora di più negli ultimi tempi. Io l'ho sentita un giorno o due prima, adesso sto facendo un po' di confusione con questo trambusto, io l'ho sentita un giorno o due prima e lei mi ha detto: guarda, stavolta ho paura, ma paura, perché mi sembra di vivere un film. In fondo della strada c'è una macchina, io questo l'ho detto, ma non è servito molto, ma l'ho detto dopo purtroppo. In fondo della strada c'è una macchina che ogni volta che torno a casa è là. E lei sospettava che si trattasse del suo ex compagno? O lui o chi per lui. Che in qualche modo la controllava? Sì, perché lui una volta gli ha detto: sì, perché io ho delle amicizie, ho delle conoscenze, una persona di mia conoscenza verrà lì e ti violenterà. E questo l'avevo sentito anch'io, l'avevo letto anch'io. È successo diverso tempo prima, perché comunque lei se n'era andata di casa più di una volta, poi è sempre ritornata. Adesso a questo punto, dopo tanto che è successo, mi sorge anche il dubbio che più che per amore o per chissà cosa, lei non fosse minacciata. Adesso mi viene questo dubbio però. Lei quando tornasse indietro sotto minaccia. Che tornasse indietro col compagno solo perché soprattutto perché la minacciava? Sì, che tornasse indietro sotto minaccia. Cioè mi viene adesso questo dubbio, mentre sto parlando, veramente, proprio adesso così. Immagino che in questi giorni, dopo quest'ultima sua confessione, ancora una volta lei sia stata per forza costretta un po' a rimettere insieme tutti i tasselli, no, di questa vicenda. Sì. Questa confessione, poi la prima ritrattazione, ora poi ha confessato di nuovo, salvo poi parzialmente, ecco, fare una retromarcia con... Le faccio presente che questa è la quarta, eh? Sì, infatti. Ma che cosa vuol dire secondo lei? Lei ha qualche dubbio sulla sua responsabilità? Io personalmente no, non l'ho mai avuta, e tanto meno ora. Io penso, cioè non mi meraviglia questo, però nello stesso tempo penso che comunque lui il rimorso lo stia logorando e gli auguro che lo logori fino all'esaurimento, fino a finire proprio. Non è stato facile tenere la bimba fuori da tutte le ultime novità giudiziarie sulla vicenda dei suoi genitori. La signora Natali ha cercato di tenere sempre spenta la televisione, di non lasciare in giro giornali, ben consapevole che comunque in una piccola comunità è praticamente impossibile conservare la nipotina sotto una campana di vetro. Una vita da operaia con tanti sacrifici per andare avanti, Maria Emanuela Natali, l'unico appoggio economico per crescere la nipotina, l'ha trovato proprio nella famiglia di Occhi, nei genitori, ossia gli altri nonni della bimba. Sì, io oggi non sono neanche uscita di casa, a dire la verità, anche se comunque può succedere che domani tornerà a scuola, qualcosa fiori, insomma. Ecco. Lei che cosa ha raccontato alla piccolina? Io ho seguito un discorso... Cioè ho seguito il programma che mi è stato consigliato da uno psicologo. Lei sa le cose in parte adeguate alla sua età, in modo che non gli arrivi una massata così, insomma. Le ha mai fatto una qualche domanda alla bambina? No, io cerco di evitarlo nel modo più assoluto, e le cose gliele devo dire io, e seguendo appunto un programma consigliatomi da uno psicologo, perché io gli devo presentare le cose comprensibili per la sua età. Non le cose crude come se le sbattono i giornali, insomma. E io cerco di fare questo e finora, insomma, ci sto riuscendo, ecco. Anche perché è una vicenda che è troppo cruda per una bambina piccola. Certo. Lei stessa e la bimba siete stati minacciati? Neanche tanto io quanto la bambina. E quella è una cosa che indigna molto, perché al momento che lui l'ha fatto, io sono stata allontanata di casa, io, la bambina, e di conseguenza io l'ho seguita, perché lei potesse avere comunque un punto di riferimento. E siamo stati in casa famiglia per diversi mesi. E la cosa che mi ha dato fastidio è perché, cioè, una cosa che ti logora nello stomaco, e dice: ma come? Lui fa, lui briga, lui dice, e io mi devo nascondere. Certo. Io quello che spero è che adesso qualcuno faccia qualcosa, che lo mettano dentro, anche se mi hanno telefonato prima, mi hanno detto che è uscito qualcosa in un telegiornale che pare che lui sia già stato ricoverato in un ospedale. E comunque mi auguro che procedano in questa direzione, perché comunque al di là di quello che sarà la giustizia, che con questo fatto di questa legge che non si può più processare una persona la seconda volta per lo stesso reato, appunto, che perlomeno facciano qualcosa, diciamo, a livello medico, che lo curino, che lo mettono in un posto che non possa più danneggiare, perché lui non può ogni volta che gli viene in mente fare queste dichiarazioni e mettere un subbuglio tale da far stare tutti male. Lei si sente minacciata dalla presenza di quest'uomo? No, io no. Per io la personalmente, bambina. Guardi, io non ho paura, io mi auguro che se l'abbia lui di me paura, ma veramente è lui che deve aver paura di me, l'unica cosa che mi dispiacerebbe è che venisse a disturbare la bambina, per cui io debba seguire ancora quello percorso che ho seguito anni fa. Certo, quindi quello che lei in questo momento vorrebbe è che comunque ci fosse il modo di tenerlo lontano dalla bambina. Sì, lui ha comunque un divieto, Cioè lui ce l'ha, è una cosa che viene dal tribunale dei minori, lui ha il divieto di avvicinare la bambina. Adesso, per mano mia, lui ha il divieto di avvicinarsi a me e anche nel comune in cui vivo, e oltretutto anche nel cimitero dove c'è mia figlia. Quindi i divieti li ha. Io spero che lo rendano innocuo, che lo mettano in una struttura, insomma in un qualche cosa, io non lo so. Starebbe più serena però se lui fosse in carcere. Ah, sicuro, lì so che non scappa. Perché anche se io non ho paura per me, però è sempre una mina vagante, ma non solo per me, anche per la sua famiglia, sa. Storielle. Storiacce. Prima di colpire mia moglie, ricordo che guardavo la mia bambina dormire nella stanza vicina. Ricordo poi che ho colpito Giada, non so bene dove, con il tubo d'acciaio che avevo con me. Non avevo intenzione di farle troppo male. Inizia così il verbale che lo scorso 2 gennaio Denis Occhi, 33 anni, ha firmato a Ferrara per confessare il delitto della sua ex moglie 4 anni fa. Una missione senza conseguenze però, perché lui per quel delitto non può più pagare. È stato infatti assolto definitivamente dalla Corte d'Appello di Bologna nel 2008 e in assenza di un ricorso in Cassazione per la giustizia è innocente e non più sottoponibile a processo per lo stesso fatto. Ne bis in idem, recita la legge. Lo sa Maria Emanuela Natali, madre di Giada e nonna di quella nipotina, figlia della donna uccisa e del padre che si accusa di quel delitto, che per lei ora è tutta la sua vita. La conosce questa legge Maria Emanuela Natali, ma proprio non riesce a mandarla giù al pensiero di quell'uomo libero, quell'uomo che ha inviato anche minacce alla sua bambina. Ha paura per la nipotina, la signora Natali, ma i suoi timori deve tenerli a freno per non turbare ulteriormente la serenità della piccola. Ma allo stesso tempo, ora, costretta a ripensare a tutti i fotogrammi di questo dramma familiare, dà una spiegazione anche a tutti gli addii e i ritorni della figlia da quell'uomo di cui pur aveva paura e che tante volte ci ha raccontato nella prima parte dell'intervista la signora Natali aveva anche denunciato. Forse anche lei, Giada, era minacciata, riflette ora la madre, che agli inquirenti ha raccontato anche delle ansie della figlia, che negli ultimi giorni, prima di essere colpita a morte, continuava a vedere un'auto che la seguiva. È sempre una mina vagante, ma non solo per me, anche per la sua famiglia, sa. Queste minacce che lui aveva fatto avere alla bimba, com'era andata? Lui deve aver parlato non so con chi, e queste parole, sicuramente con un qualche ufficiale, e queste parole hanno fatto il giro e sono arrivate al tribunale, se è necessario al tribunale. Sono stata praticamente presa e trasportata in un posto così, io non sapevo niente. E in tutto questo ha avuto qualche aiuto dalla comunità in cui vive, dal sindaco? Questa è una cosa che, guardi, mi stavo tenendo le dita incrociate perché proprio glielo volevo dire. Adesso che si è sollevato tutto questo, c'è un'altra cosa che indigna e che fa rabbia, anche oltre questa cosa qui di questa legge che è discutibile. Il fatto che aiuti a noi zero. Ma proprio zero. Ci sono aiuti per le vittime della mafia, ci sono aiuti per le vittime della strada, per noi niente, a livello economico niente. Io ho un aiuto dalla famiglia di lui, perché per fortuna abbiamo dei buoni rapporti, perché loro colpa non ne hanno se hanno un figlio del genere, ma però non c'è nessun altro, perché dicono che la bambina ha i nonni e basta. Finita lì, quindi i servizi sociali magari hanno pagato la casa famiglia per me e per la bambina. Il comune non ha alcun tipo di... Nessuno, ci hanno fatto una piccola colletta il giorno del funerale, perché poi mia figlia è morta dopo 14 mesi di coma. Sì, sì. Una colletta del paese, così, e basta. Aiuti da nessuno, nel comune, la regione, nessuno, sai cosa vuol dire nessuno? Proprio abbandonati completamente. Mia figlia purtroppo, sì, era giovane, ha lavorato poco, quasi niente, perché aveva una bambina, quindi non c'è neanche una pensione da dire che la bambina possa avere una pensione perché non ha più la mamma, niente. Né tantomeno nel momento in cui c'è stata la sentenza avete avuto diritto a qualche tipo di risarcimento dal momento che lui è stato assolto? Ma no, a parte che ci siamo costituiti parte civile anche perché è una prassi, però sapevamo benissimo che comunque lui non aveva niente, anche se fosse stato comunque condannato non ci avrebbe dato niente. E quindi lei tutto questo aggiunge e accresce la sua amarezza? Certo, sì, perché sono cose che... Non lo so, vanno sprecati tanti soldi, cioè vede anche lei, non sta certo a me a dirlo, in elezioni 1-2 volte all'anno, che magari si potrebbe anche evitare, vanno sprecati tantissimi soldi e a me e a chi è messo come me non ci pensa nessuno, e per fortuna che ho un misero stipendio, perché sennò magari non potrei neanche tenere la bambina. Me lo dica sinceramente, nel momento in cui ha sentito di quest'ulteriore confessione e del fatto che però lui non possa essere di nuovo processato, qual è stata la prima reazione d'istinto che lei ha avuto? Vuol sapere le mie prime parole? Sì. Le mie prime due parole, che schifo. Penso che si possa capire, no? Certo. All'interno della comunità c'è qualcuno che vi ha espresso vicinanza, oppure no? Assolutamente no. Dove lei vive? Cioè il suo paese? No, non più di tanto. Sai, la gente ne parla inizialmente e poi dopo basta e finisce tutto lì. Quindi ciascuno poi tende a farsi i fatti propri? I fatti suoi, sì. C'è anche forse un timore a lasciarsi coinvolgere da vicende crude come queste, che però riguardano qualcun altro? C'è un timore a essere in qualche modo coinvolti? Certo. E invece mi diceva che con i genitori di lui i rapporti sono buoni? Sì, ho sempre mantenuto i buoni rapporti per la bambina, poi perché, ripeto, loro non ne hanno colpa, perché comunque lui non può avvicinarsi neanche alla casa di sua madre, oltre a tutte le altre, agli altri divieti che ha. È proprio dalla famiglia di lui che lei, mi sembra di capire, riesca ad avere un qualche aiuto? Sì, qualche aiuto. E la bimba ovviamente sa che loro sono i nonni, quindi... Certo, sì. Lei non ha mai avuto un distacco, se non nel periodo appunto che eravamo via, però lei non ha mai avuto un distacco da loro, insomma, ecco. Avete mai pensato di, non so, di avviare qualche altra vicenda legale adesso dopo quest'ulteriore confessione? Allora, guardi, io non so cosa si possa fare. Io ho un avvocato che per bontà e finora ho pagato poco, nel senso che penso di avergli dato soltanto le spese che lei ha dovuto affrontare, insomma. Certo. Non sono di quegli avvocati che mi sono sempre addosso a chiedermi soldi. Certo. E io di questo la ringrazio, e quindi dovergli andare a chiedere di fare ulteriori cose che non so, perché io in questo momento non saprei che cosa si possa fare. Io sinceramente non me la sento di dire ma facciamo questo, oppure perché ho sentito dire che si può fare quell'altro, no. Lei vuole soltanto mettere una pietra sopra questa vicenda? Guardi, io veramente vorrei ritornare nel mio guscio in cui ero fino alla settimana fa, anche se in quel momento io ancora speravo nella Cassazione, perché ho saputo adesso, in questi giorni, che il procuratore generale non ha presentato il ricorso in Cassazione. Sì. Io stavo libera, tranquilla, dico arriverà pure la Cassazione, poi dopo vediamo, anche se ripeto ancora, non avevo tanta fiducia nella giustizia, speravo nel lavoro del dottor Proto, che comunque ho conosciuto, è una persona valida, so che si sta battendo in questo momento per cercare di fare qualcosa, però globalmente nella giustizia con quello che si vede ci credo poco, anche perché ho detto vabbè, lo mettono dentro, poi come è già successo, perché lui ha avuto la fortuna di godere dell'indulto, perché lui era dentro per rapina, per tutte queste cose qui, poi sì, ha avuto la fortuna di aver l'indulto, così anche fuori. Quindi la sua fiducia era già molto bassa verso la giustizia. Esatto, ecco, sì, appunto, perché dico, poi tra quello che si vede, lui magari anche se veniva accusato andava dentro, poi dopo vede cosa succede, ma lo sconto di pena, ma questo, ma quello, ma quell'altro, si fanno un po' di anni, poi te lo vedi girare per la strada. E adesso la sua fiducia immagino sia proprio inesistente. Crollata.